forma di contare tarda ad essere venire all'assemblea di Confindustria dicendo che la transizione ecologica è un disastro e che va fermata. Mentre pronunciava quelle parole, l'Emilia Romagna andava sott'acqua un'altra volta, tra l'altro negli stessi punti. Mentre parliamo, in Emilia Romagna c'è un disastro in corso, 1000 sfollati a Modigliana, a Faenza, a Castel Bolognese. Premier che è stata in silenzio quest'estate di fronte alla siccità della Sicilia, che ha portato l'agricoltura in ginocchio, ha portato gli agricoltori a piangere, a vedere i propri vigneti, agrumeti estirpati, a vedere animali abbattuti a causa della carenza dell'acqua. È una premier che è stata in silenzio di fronte. Natalino, ci sei in ascolto? Attento Natalino, ci sei in ascolto? Ehi, Lillo, butta la pasta, Lillo. Sono a posto. O palle. Quanto è il segnale da te? Ma il tuo? Io che segnale ho? Sul 3, sei del più 30. Strano, cazzo. Boh. E beh, lì no, butta la pasta. Oh cazzo, ma che cosa che la mamma? E beh, Cinco! E beh, lui, e chi è che sta uscendo a basso? Io! Basso uscendo! Basso? Che cazzo sei, sei roghi? Oh, non lo so, allora basso, c'è problemi Antonio sicuramente. No, aspetta, aspetta, ho toccato una cosa. Cazzo basso, cazzo me ne scende dalla gorolina, me ne sei scende. No, ma boh, sono io che c'è qualcosa di strano. Com'è il segnale da te, Emanuele? Va bene, è la radio che è bassa. La radio mia è bassa? Sì, è cupa, poi non lo so da Luca. Ma quello non lo so, cazzo che è strano. Che sei a posto, che sei a posto. Che sei a posto. E beh, tu lavorando stai? Sì, sono fermo. Domani c'ho, devo fare un colloquio. Guarda che stanno cercando 200 guardie giurate alla Capservi. Lo stanno cercando? E lo stipendio quant'è? Non lo dico allo stipendio, cazzo non sembrava niente, tu guarda subito il lavoro, lo stipendio già è buono, cazzo è per quello che la gente non ci va a lavorare. Beh, ma sono d'accordo con Antonio, bisogna fare quanto danno, se siamo qua da Pauto Centurio non a fare i notturni, ma anche no. Ma tu esatto non liberi di sicuro, perché non li prendi di sicuro a 400 euro. Però cazzo uno che non sta lavorando ha dato una miseria, per non avere. Io preferisco andare a lavorare e non stare a casa. Vabbè, vuol dire ti conviene Emanuele, ma tu se non conviene non ci vai. Qua mi stavo dando, se ho per mezza giornata 25 euro, cazzo in più devo usare la macchina, secondo me il governo andare a travagliare. Pur di non stare a casa, ma anche no. Basta che non li prendi 400 euro, se prendi quelli 1100, 1200, il massimo, facendo 8 ore. Vabbè, siamo tutti uguali purtroppo, è così. È così. Oh, è un casino. E Antonio adesso magari grazie qualche soldino, prendersi una macchina, così è più autonomo e tutto. Allora, c'è la moto lui, è quello, però quando piove come cazzo fa? Io, Luca, cazzo, una giubilea dove è, vado a trovare Luca, ma non a Sassaro, andate nel paese a Usilo. Lo so, anch'io li ho preso quando lavoravo ai parcheggi quando ero ragazzino. Lui lo aveva dei giurati, tu pensa che all'epoca avevi Luggiavo, invece era pure filmato in mezzo all'Eva. E se ti metti vero, Luggiavo era puntina il motore. Eppure, anch'io li ho preso un bel, ma a quazzoni. E quando si follia la gardina, il cazzo rimane a piedi. Anche è vero. Vai, Anto. No, la mia, ho preso acqua, grazie a Dio, di queste cose non ne ho mai avuto. Ma non mi è successo nulla. La mia già è abbastanza, c'è la testata molto sopra, capito? Quindi elettronica, quindi non succede niente. Di chi sono riboso di nulla. Adesso gli ho fatto l'ammortizzatore l'altro giorno. È una bomba, eh. Luca? Sì, Anto, sì. Stavo mandando un messaggio. Niente. E così. So quante volte ne hai bisogno ci devi andare, ma cazzo, ti hanno una miseria, lui, lasciamo perdere. La sua volta stavo lavorando io, mi dava 50 euro la giornata, vanno bene. Facevo dalle 8, che poi alle 8, andavo più tardi, 8 e mezza, avevo posto di lavoro, mi fermavo all'una, dalle 2 alle 5, boom, anche prima. Alle 5 e mezza a casa, adatta, una cosa di entrare, tutto. Ma si è preso un lavoro a Olbia, ha detto che mi chiama. Fotovoltaico. Speriamo. Speriamo di sì. Io cioè, devo vedere anche perché me ne hanno promesso uno che è buono, capito? Io, cioè, non è che non stavo, stavo lavorando il mese scorso, però io mangio tutti i dì a casa, non posso lavorare. E oggi sono, questi giorni sono a casa buttato, fermo. Cazzo, sono soldi che io perdo. Se permetti io voglio lavorare tutti i giorni. Sono d'accordo con te, perché questo mi chiamava. Cazzo, 2, 3, 4, 5 giorni, abbiamo messo in fermo. Funziona così. No, non posso permettermi, voglio un lavoro che mi duri tutto l'anno. Io voglio fare una prova, voglio chiedere anche a questa Coop Service. Se mi vogliono a lavorare, che mi danno uno stipendio decente, col bambino e tutto, io ci vado, se cose non fanno. Prova con Manuele, quello che ha detto lui, prova a vedere, candidati. Cos'è lui? Ho detto di candidarsi, bisogna candidarsi, no? Non lo so, lei si è allenato, deve portare il curriculum all'ufficio, che lo sono loro. Dirà nell'ufficio. Ma dove sei tu, Manuele? No, lì alla Coop Service, sia portierato o guardia armata, non dove sono io. Dov'è? Basta guardare su... mette Coop Service, Sassari, lì da dove è l'ufficio. 200 guardie giurate stanno cercando. Portierà sia portierate che guardie giurate. Boh, adesso vediamo. A fine non sono altro il campanello. Lavoro è così, Lu. Lavoro è quello, lo so, è sottopagato, ma non è altro. Cosa arriva? Non c'è altro. Allora, istituto di vigilanza... Coop Service S.P.A. centrale operativa in via Canica sono. Bravo, vicino alle vere, al bar delle vere. Ce lo posso anche portare, vediamo, istituto di vigilanza Coop Service. Vedi, domenica ho fatto servizio Manuel via la Torres, ho fatto dalle 2 alle 5 e mezza, neanche fino alle 5, 3 ore di lavoro mi hanno dato 40 euro. Io lo so, vedevo anche a noi quando io, per fare la torre, quando c'era la torre. A Ciucca c'era? No. Aspetta, chiamano questi qua. No. Vediamo un po'. Moto l'ha fatto ieri, Michela. Non si vede la scritta. No. Comunque c'hanno il gilet giallo, con le strisce... fluorescente. Maciucco. La pettorina gialla. Maciucco. No, oh, l'ho chiesto, non è Maciucco. Allora è la GHG, dove ero io, quando facevo i concerti. E mi sai la GHG, sì. Mauro Coso, Marco Guiz. Aspetta, te le giro, così le vedi. Solito c'è anche Maciucco. Mi sembra che non c'è Maciucco. perché ci sono anche loro. Guarda, le ho girate, guarda. E adesso ce l'ho dentro in camera, poi guarda, vedete. Comunque sono GHG e la squadra di Maciucco. Poi c'è un'altra squadra che è di Alghero. Sono tre cose, sono tre vigilanze, un po' sicurezza, non è vigilanza. Ho capito. Vediamo. Mi faccio un salto che lo porto il curriculum. Vai che lo porto. Cioè anche, portaglielo anche all'altro. Tanto sono tre vigilanze assieme lì. Forse ne ho qualcuno in macchina. Cosa lo conosce a Busa? Chi Marco Busa? Torre Busa. Boh. Comunque li ho trovati, dai. Ne ho trovato un altro. E lo posso anche portare domani. Nella mattina tanto gli uffici a fare le 9. C'è la guardiola. Cazzo, domani se la adesso che mese si riuscì domani, come anche oggi. È un casino, sono lavori alla fine, cazzo, lavori anche di domenica, non è vita, ecco. Lo so, tu hai ragione del mondo, bisogna travagliare, ok. Lavoro, bello, ma anche se lavori dall'ora di al sabato, la domenica c'è la libera, non la domenica. Poi, ovviamente chi lavora in cantiere fa da lunedì al venerdì e sono stipendiati bene. Vabbè, in cantiere bisogna sì. C'è uno che lavora, ha 20 anni, che lavora lì a dove stanno lavorando, facendo sicurezza lui, in cantiere. Beh, questo qui a 20 anni sta prendendo 1850 euro. Fatti un conto. Buono. Cazzo sei buono. Ti fai un guru, però prendi bene. Io in cantiere non ci posso più andare, magari durerà da fare, non posso più fare quei lavori, roba di edilizia non ne posso più fare. Purtroppo è un casino. Io devo fare solo questo tipo di lavori qua, adesso ho fatto anche cose di Alcaf, dell'iscrizione delle categorie protette. Ora si chiamano, ma quasi già l'hanno. Adesso mi voglio informare per il diploma. Prendo il diploma troppo in un paio d'anni, c'è il diploma. Serve, insomma, voce, ma serve. A me quando stavo facendo la terza media, il diploma è venuto uno. In classe quando stavamo facendo le scuole serali, terza media serale, 150 ore mi sembra, e ce l'avevo detto se volevamo diplomarci, cazzo, ma lui ha mica 4 anni, cazzo. Il diploma sembrava così, ma ho parlato le scolastico per fare il birello, non c'è il diploma. Già lo so, per quello, per il lavoro, fare il diplomarsi per il lavoro, sennò un addestramento non serve a nulla, non serve più a nulla. Aspetta un attimo, dovevo mangiare adesso. Beh, Emanuele, adesso chiudo e vado, visto la mano, andando a mangiare al cane, e vado, sono a cena della mia compagna. Ok, dai, Luca, ce la riascoltiamo, dai. Ciao, buonasera. Ciao, Emanuele, ciao a tu. Attenzione, ci vedete qualcuno che fa casino qua? Dove tu sei? Attenzione, binario 10, binario 10, qualcuno? Attento Natalino.